Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, anche se come giornale radio ci ha appena ricordato, in realtà è un pomeriggio disastroso per l'Europa e per l'Italia in particolare, visto l'ennesimo crollo dei mercati e dello spread, ma è un pomeriggio di inquietudine anche per il nostro piccolo mondo del pallone, che sta cercando di capire che cosa significhino in prospettiva, prima umana e poi professionale, sia ben chiaro, quelle due parole, ictus ischemico, che rappresentano la prima diagnosi sul conto di Antonio Cassano. Siamo collegati, lo ringrazio in modo particolare anche per la giornata festiva, con il dottor Piero Volpi. Ciao Piero. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ricordo agli ascoltatori e ai naviganti che Piero Volpi, dopo alcune centinaia di partite in Serie A, B e C, è oggi, oltre che un illustre traumatologo, il medico di riferimento dell'Associazione Italiana Calciatori, consulente dello staff medico dell'UEFA, ma non solo. Negli anni in cui è stato medico sociale dell'Inter, gli toccarono due casi che potrebbero avere, forse, lo stabiliremo tra poco, qualche attinenza con quello di Cassano. Sto parlando di Ronaldo, quella famosa scena della scaletta dell'aereo parigino, ma anche di Canu e della sua inidoneità cardiaca, se non ricordo male. Caro dottore, io partirei proprio da quelle due parole, ictus ischemico. Che cosa significano per un atleta di 29 anni? Ma diciamo che innanzitutto che la terminologia che come in campo medico è molto importante, significa che si è avuto un'insufficienza, un arresto di quello che è la l'irrorazione sanguigna in una parte cerebrale, quindi è chiaro che la maggior parte di queste forme sono forme, come dire, irrilevanti, è una parola forse esagerata, ma per dare il significato, cioè sì, quello che può essere semplicemente un effetto transitorio. Molte di queste forme sono effettivamente forme che durano poche ore e quindi non lasciano assolutamente nulla, e mi sembra che di questo stiamo parlando, senza andare sulle forme di ictus maggiori che ovviamente non riguardano questo caso, ma che purtroppo sono frequenti nella nostra vita sociale con persone che poi hanno ovviamente problemi maggiori. Cioè, tu ci stai, scusami, era solo una piccola interruzione per dire questo, cioè sono già passate, per la tua esperienza, sono già passate un numero di ore sufficiente a, non dico ad escludere, ma insomma comunque a fare ampiamente sperare che il fenomeno fosse di lieve entità, ma soprattutto non sia destinato a ripetersi. Ecco, no, queste sono due considerazioni giuste, ma successive alla definizione che stavamo dando. Ah. Cioè il fatto che il giocatore, almeno da quello che si sente dire, perché è chiaro che forse andrebbe fatta ancora una premessa ulteriore, cioè quella che fino a che non si ha una diagnosi certa comunque delle istituzioni che governano in questo momento la situazione, che è, ovvio, sono i medici del Policlinico dove è ricoverato e il Milan, che è ovviamente la società del giocatore attraverso i suoi medici, noi ovviamente possiamo solo parlare di ipotesi. E le ipotesi sono state diciamo in questi giorni come tu hai accennato le più vicine a questo tipo di terminologia, almeno anche oggi sui giornali, leggendo moltissimi giornali. Detto questo, però, stiamo parlando comunque di una forma minore, stiamo parlando perché il giocatore chi è stato a trovarlo è sveglio, è vigile, parla, quindi non ha una situazione, come dire, impegnativa. Stiamo parlando quindi di un fenomeno lieve che viene definito anche TIA con un acronimo, cioè forma ischemica transitoria o temporanea. Ecco, detto questa prima cosa, due cose che tu hai detto sono molto interessanti, cioè innanzitutto che in un giovane è piuttosto raro che si verifichi, e questo la prima cosa da pensare è che devono essere fatti, cosa che stanno facendo, degli accertamenti molto approfonditi per capirne la reale causa, cioè da dove questa situazione è partita e quale ne è la causa. E l'altra cosa è quella che hai detto tu, che effettivamente e i rischi sono anche qui molto bassi, devo dire, però che non succeda un ripetersi della situazione. Vedi che tutte e due le cose hanno bisogno, sia l'indagine approfondita, sì, sia il fatto che non si ripeta, ecco che giustifica questa latenza di tempo che può sembrare enorme, perché c'è un'attesa, c'è una richiesta di conoscenza di questo fatto in questi 2 o 3 giorni, e dico: ma come, non ci sono comunicati, ma come, non ci sono notizie? Ma proprio perché devono rispondere a questi 2 quesiti che giustamente tu hai posto: primo, che non si ripeta nel breve periodo, almeno immediatamente, e secondo, che ci siano i tempi, perché per esempio una cosa che si fa spesso in queste forme è quello di ripetere una risonanza magnetica nelle 48 ore o addirittura nei 4-5 giorni successivi, proprio per vedere che gli esami siano del tutto effettivamente negativi, quindi richiede un certo tempo. Questo è il primo dato, insomma, che cui possiamo, diciamo, lasciare una piccola traccia. Ira, è prevedibile qualcosa di questo genere? Noi ci siamo sentiti un paio o tre settimane fa per una puntata che tra l'altro era stata molto apprezzata dagli ascoltatori, perché c'era quella teoria che, cioè, poi mi pare fossimo venuti a capo nel definirla discretamente strampalata, della possibilità tramite il DNA di prevenire o comunque di poter studiare per tempo la possibilità di infortunarsi per i calciatori. Qui non stiamo parlando di infortuni, stiamo parlando purtroppo di tutt'altro. Esiste una forma di prevenzione in questo? In fondo gli atleti devono avere una specifica idoneità per i loro sforzi agonistici. Assolutamente sì, ed fanno delle visite accuratissime che vengono ripetute anche a 6 mesi, una visita annuale molto molto accurata e poi ripetuta con degli esami e degli accertamenti a 6 mesi, e poi teniamo presente che questi giocatori sono monitorati dai club e controllati anche diciamo settimanalmente, quindi diciamo che fanno delle visite accurate, ma questo tipo di patologie o comunque di affezioni assolutamente sono imprevedibili. Ma ti dirò di più, che la mia sensazione adesso, tutti aspettano il comunicato che verrà nei prossimi giorni, forse domani, dei medici su questo caso, però la mia sensazione è che nulla che abbia a che vedere con l'attività sportiva, cioè questo dato, questo episodio che ha avuto Cassano, il giocatore Cassano, poteva capitare all'impiegato di banca qualsiasi, cioè voglio dire è una situazione che non sembra tanto legata all'attività sportiva e quindi non assolutamente prevedibile, che è molto, soprattutto nel giovane. Ecco, l'importante qui sarà stabilire se si riuscirà la causalità, cioè se c'è effettivamente stato qualche fattore che ha dato il là al verificarsi di questo episodio. Ma sai, le possibilità possono essere enormi, dallo stress al rialzo pressorio, abbassamento pressorio in un momento di particolare stress a mille altre situazioni. Mille altre possibilità. Sì, certo, c'è anche... Scusa se ti interrompo, perché mi avevi fatto un'altra domanda riguardo invece alla legislazione sportiva. Sì, all'idoneità, sembra, certo. All'idoneità. Ecco, qui io non penso, ti dico la verità, che ci sia problemi col suo ritorno sportivo, sempre che le tonalità della situazione rimangano su questa linea, cioè abbiamo detto di un fatto lieve, transitorio e che non lasci sequeli agli esami di controllo. Ecco, se questo è il trend di quello che sta uscendo di questo caso, io penso che Cassano ritornerà a giocare tranquillamente. Adesso dire i tempi è un po' più difficile, però io penso che dopo un breve periodo, un periodo comunque di accertamento, di riposo eccetera, lui possa ritornare. Il problema della legislazione sportiva ovviamente viene superato con una nuova visita di idoneità, che in questo caso eseguirà il medico sociale della squadra, con ovviamente diciamo l'aiuto degli specialisti del caso, che esibiranno tutti i certificati ovviamente che testimonieranno che tutti gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore sono negativi, ecco. Beh, insomma, comunque, che su queste basi, per quanto ne sa al momento, tu ci abbia già detto che Cassano prima o poi, insomma, tornerà tranquillamente a giocare, questo mi sembra il dato principale. Poi, ovviamente, si tratterà di vedere quando, si tratterà di vedere se, un giocatore che era arrivato finalmente al top della sua condizione fisica, mi pare che proprio subito dopo la partita dell'Olimpico Gagliani avesse detto... No, avesse pronunciato quella battuta, dice: ormai non gli stanno più su nemmeno i calzoni, perché Cassano era finalmente arrivato al peso forma, no? che inseguiva chissà da quanti anni. Certo, questo sarà un problema poi ritrovarlo, perché è anche facile, al di là della inattività, è anche poi facile lasciarsi andare, soprattutto per soggetti un pochino fragili. Ma insomma, voglio dire, prima si porta a casa la pelle, evidentemente, poi si porta a casa l'idoneità agonistica e dopo si parla del resto. Ti chiedo un momento di pausa, perché è giornata festiva e quindi a maggior ragione sentiamo come va su strade e autostrade. Torniamo in collegamento con il dottor Volpi. Beh, a parte che c'è una notizia uscita un'ora fa che non riguarda Cassano e che riguarda invece Luca Toni, centravanti della Juventus, che è stato multato e sospeso di patente per 3 mesi per un alcol test nella notte tra sabato e domenica nelle vicinanze di Modena, e che come minimo una cosa curiosa, oltre che forse un po' poco professionale. Dottor Piero, mi pare di aver letto che c'è un minimo di inquietudine, non tanto fuori quanto all'interno della rosa del Milan, perché comunque questo caso anomalo di Cassano segue di non molti giorni un caso più anomalo e forse più grave che riguarda l'occhio di Gattuso. Sì, devo dire che sono due cose ovviamente lontane, nel senso che non penso ci sia, come dire, nessun tipo di correlazione, e purtroppo sono capitate nello stesso periodo e in modo molto molto ravvicinato, ma sono due situazioni completamente diverse. Yes. E mi sembra anche tutte e due, come ho detto per il caso, per prima parlando della situazione di Cassano, che poco hanno a che fare con l'attività sportiva, perché sembra che appunto la situazione di Gattuso sia legata più a un fatto virale, che quindi è una cosa che diciamo poteva capitare indipendentemente da quella che può essere l'attività sportiva, e quindi mi sembrano, è chiaro che nel nostro mondo poi quando capitano queste cose, nel mondo sportivo intendo dire, certo, subito si pensano a mille cose, a mille dietrologie, però devo dire che mi sembrano effettivamente due cose non prevedibili, mm-hmm, che non avevano nessuna possibilità di essere previste con test clinici e strumentali, e effettivamente occasionali. Ritornando solo brevemente però al caso Cassano, è sì, chiaro che io ho cercato, come hai sentito dalle mie parole, di dare, ma non come sempre, perché a me piace poi essere molto pratico e dare una venatura di ottimismo, cioè quindi un ritorno, diciamo anche dare una valenza un po' positiva a questa situazione. Però è chiaro che tutto questo, adesso senza una diagnosi certa, stiamo parlando ancora, come dire, di sensazioni nostre, deve essere surrogato, ci tengo bene a sottolinearlo questo, dal fatto, come è stato detto prima, che gli esami risultino negativi, certo, e che il giocatore, che le risonanze, gli esami che farà anche domani, nei prossimi giorni, e che effettivamente si scopra e si conosca la causalità di questo suo malore. Detto questo, se tutto questo risulta effettivamente superato, io ripeto, ribadisco che il giocatore proprio non vedo motivi perché non possa ritornare a pieno alle sue attività. E questo è l'augurio. D'altra parte, e così torniamo a quelle due esperienze che ti toccarono da medico sociale dell'Inter, d'altra parte io ricordo che quando ci fu questa visita attitudinale a Canu, si disse che Canu non avrebbe mai più giocato. Quando si vide Ronaldo sbandare sulla scaletta, si disse che la situazione clinica di Ronaldo era drammatica. Mi pare che furono due casi che toccò a te affrontare e che si risolsero poi positivamente. Assolutamente. Teniamo presente che parliamo di una decina d'anni fa, sì, e nel frattempo la medicina ha fatto dei progressi enormi, questo non dobbiamo assolutamente disconoscerlo. Io mi ricordo, per esempio, in tutti e due i casi, e che erano casi ovviamente molto diversi, ma nella famosa vicenda di Ronaldo, dopo il malore alla finale del campionato del mondo, lui prese l'aereo con la squadra il giorno dopo e tornò in Brasile, scese dalla scaletta e fece il giro del mondo. Io venni subito allertato, anche noi a Milano qui, essendo giocatori proprietà dell'Inter, tutti erano preoccupati, a cominciare dal presidente Moratti, e mi misero su un aereo e andai in Brasile. Lì naturalmente tutta la diagnosi venne fatta giornalisticamente: Ronaldo aveva un'epilessia. Allora noi smontammo questa diagnosi in 3-4 giorni di accertamenti accuratissimi, tra cui uno studio neurologico fra i più sofisticati che io abbia visto nella mia carriera, e poi abbiamo ripetuto tutti gli stessi esami quando Ronaldo ritornò in Italia prima di iniziare la stagione successiva. Ebbene, io in moltissime occasioni, da lì in avanti, attraverso chi mi chiedeva, attraverso la stampa, i media, le televisioni, dissi non aveva l'epilessia, l'epilessia non è una diagnosi giusta e corretta, ebbe una crisi vagale, un abbassamento di pressione, quindi una cosa molto simile, diciamo, a quella che può essere capitata a Cassano, no? E nessuno ci credeva. Adesso però io mi dissi, fra 10, 15, 20 anni vedremo. Adesso sono passati 13 anni, io posso solo dire questo, che Ronaldo ha avuto di tutto, poverino, ha avuto una rottura del tendine, l'altra rottura dell'altro tendine quando era al Milan qualche anno fa, è ingrassato, ha avuto altri problemi, ma l'unico problema che non ha avuto sono stati quelli di tipo neurologico. Quindi alla fine penso che quella diagnosi ancora oggi deve far coraggio anche a Cassano, perché di non spaventarsi anche su paroloni o cose piuttosto importanti, perché poi alla fine Ronaldo giocò benissimo per altri 10-13 anni, a parte i suoi infortuni alle ginocchia. Certo, sì, questo mi pare che gli possa fare coraggio davvero, mi piacerebbe che stesse ascoltando le tue parole, o che qualcuno gliele proponga presto tramite podcast magari. Il caso, il tempo sta passando, cioè, ci restano un paio di minuti. Il caso di Kanu invece, quella ecco, era... Circa il caso Kanu invece, il caso Kanu fu veramente un miracolo della medicina. Qui bisogna dire che la medicina ha salvato questo giocatore, la chirurgia, la cardiochirurgia, perché lui aveva veramente una situazione drammatica con una valvola cardiaca praticamente insufficiente oltre il 30%, e questo cardiochirurgo americano gli riparò la valvola. Non sto adesso a dilungarmi su tutte le sequele, la vendita del giocatore dall'Ajax all'Inter e tutto quello che ci fu dietro, però il giocatore fu operato, venne risistemata e rimodellata la valvola con un atto chirurgico secondo me fantastico, vero miracolo della cardiochirurgia. Il giocatore ha giocato e sta giocando, mi risulta, ancora in Inghilterra in questi ultimi anni, con in una situazione di, ovviamente, di ripresa agonistica piena. Da noi ebbe le visite di idoneità a tre mesi, il primo anno, e poi successivamente a 6 mesi, a un anno, e poi andò in Inghilterra. Oggi sta giocando, il giocatore quindi non è ritornato alla vita, è ritornato allo sport oltre che alla addirittura vita. E quindi speriamo che questi due precedenti che, insomma, hai vissuto in prima persona possano non solo far coraggio, ma possano ripetersi, soprattutto nel caso di Antonio Cassano. Grazie, dottor Volpi. Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie davvero per questa disponibilità, ma grazie anche per le cose che ci hai detto, sempre con quella premessa doverosa che hai ripetuto due volte, e cioè che a patto che poi gli esami clinici siano rassicuranti, come potrebbe sembrare da quel minimo che si sa del decorso. Non so se c'è già il risultato finale. Sì, c'è il risultato finale di Padova-Livorno, che era l'anticipo della giornata di oggi dedicata alla Serie B. Il Padova ha battuto il Livorno 1-0 con un gol di Cutolo. Alle 15 ci saranno tutte le altre partite, meno Regina Torino, che è in programma invece alle 18. Mi sembrava aver visto un ascoltatore collegato, invece la linea è caduta. E allora vi ho detto della notizia di Tony, tradito dall'etilometro e quindi a cui è stata ritirata per 3 mesi la patente. Ci sono questi due risultati dell'internazionale di ieri sera, e ne approfitto per segnalarvi che dopo il lungo intervallo per i mercati, giornata davvero drammatica, la seconda parte del programma sarà dedicata al calcio internazionale, alla doppia serata di coppe oggi e domani, in compagnia come sempre di Fabio Tavelli. Due anticipi di notizie, anche se in realtà quello del Newcastle, anche se in realtà erano due posticipi. In Inghilterra il Newcastle è salito al terzo posto dopo la vittoria di ieri sera, e in Spagna invece il favorito Siviglia ha perso in casa il derby con il Granada, facendosi rimontare negli ultimi 2 minuti. Una voce che arriva dal Milan, che arriva dall'ambiente rossonero, per far coraggio a Cassano, quella di Zambrotta. Siamo lì con lui, lo aspettiamo a braccia aperte, perché comunque anche la sua presenza nello spogliatoio si sente. Sono dei sintomi chiaramente non piacevoli questi. È chiaro che un po' subito ti viene l'ansia e la paura che possa essere comunque una brutta malattia. Questo credo che sia normale, sia logico, però credo che insomma, Antonio in questo momento sia comunque una persona forte, che comunque riesca a superare questo difficile momento, però ripeto, noi gli siamo vicini e questo credo che sia importante e gli faccia comunque tanta forza. L'appuntamento con il calcio internazionale è dedicato in gran parte alla due giorni di Champions League che sarà il Milan, tra l'altro, ad aprire tra poco più di tre ore, alle 18. Prima del collegamento con Fabio Tavelli a Sky Sport 24, sentiamo la rubrica di Nicola Filippone e vediamo che cosa ha scovato per questo primo novembre. Sembra ieri. Primo novembre 1962. È il giorno della svolta per quella che sarà la grande Inter di Elenio Herrera, impegnata a Marassi contro il Genoa. I nerazzurri avevano raccolto solo 7 punti nelle prime 7 gare e la posizione del mago in panchina iniziava a diventare traballante. Le ore che precedono la gara sono tormentate. Umberto Maschio non gradisce di non essere in formazione e se ne torna a Milano in treno, ma l'Inter riesce lo stesso a vincere, trascinata dal debuttante Jair e da Facchetti. Il successo di Genova galvanizza gli uomini di Herrera, che iniziano a macinare vittorie, fino alla conquista dello scudetto, che segnerà l'inizio di un ciclo straordinario. La Coppa, dunque. Bentornato a Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Nel dubbio su da dove partire, io direi da questa, anche se è banale, da questa serata di Coppa, che evidentemente per il Milan rimane poco più di una formalità da un punto di vista tecnico e soprattutto di classifica, ma che insomma si tinge di un colore diverso alla luce del problema Cassano. Sì, fermo restando che tutto quello che diciamo va filtrato, va fatto una tara, perché comunque le informazioni sono state veramente centellinate, quindi c'è l'aspetto umano che naturalmente ci unisce tutti. Poi ai giocatori un racconto un po' più dettagliato, una spiegazione un po' più dettagliata sia stata fornita. È chiaro che da un punto di vista tecnico la partita non dice nulla. C'è però un aspetto importante, che comunque il Milan battaglia per vincerlo questo girone, probabilmente si deciderà nella partita contro il Barcellona a San Siro. C'è già comunque un dato, che è il pareggio che il Milan ha strappato al Camp Nou. Credo che dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del fatto che il Bate Borisov cercherà comunque di mettere la partita su ritmi particolarmente elevati, io non sottovaluterei questa gara, nel senso non la considererei una vittoria già scritta, come penso che invece sia la partita del Barcellona contro il Vittoria Pölzan, proprio per questo aspetto, che è un aspetto un po' caratteriale, un po' psicologico, e anche dato dal fatto che comunque il Bate un interesse al risultato ce l'ha, perché comunque battaglia per eventualmente rientrare in Europa League. Ecco che quindi la partita si può prestare anche a qualche tipo di trappola. Senti, dal resto del calendario della serata mi pare che Arsenal, Marsiglia, Valencia, Bayer Leverkusen abbiano un'evidente valenza tecnica di classifica e di tutto il resto, però dopo questo sfogo di cui ci racconterai poi di Villas-Boas nei confronti del Chelsea, anche la partita del Chelsea, che pure è praticamente già qualificato, forse il suo perché ce l'ha. Ma guarda, il Chelsea da un lato sconta certamente un momento di scarsa brillantezza. Scarsa brillantezza che l'ha portato a perdere 6 punti in 2 giornate sul Manchester City. E questo è una cosa pesante. Una cosa pesante anche perché poi il Chelsea in questo momento è a 8 punti dal e a 9 punti, chiedo scusa, in questo momento al Manchester City, è nel gruppone cosiddetto di rincalzo, si è formato un bel gruppo di terze, perché ci sono Chelsea, Newcastle e Tottenham a 19, Liverpool a 18, Arsenal a 16, l'Arsenal e Liverpool più o meno sono rientrati, sì. però il City è andato via. Insomma, beccare 6 punti in 2 giornate non è una grande idea, oltretutto perdendo in casa contro l'Arsenal, quindi non solo contro una rivale storica in un derby, ma anche in quel modo, dopo aver perso la scorsa settimana un altro derby contro il QPR, diciamo che non poteva non lasciare qualche strascico. Certo, poi il fatto che Vilas Boas si sia detto tradito, addirittura deluso dalla squadra, ha tenuto rapporto ai giocatori, qualcosa è spifferato, pare che i giocatori non abbiano replicato sentendosi un po' in colpa, ma comunque Vilas Boas abbia scaricato, ovviamente in maniera privata, le colpe dei del momento così deludente sui giocatori, certamente non aiuterà a rasserenare l'ambiente, al punto che qualcosa che era impensabile è la quotazione del suo esonero, che si è abbassata a 3,25, però, che è una quota comunque alta, ma scendeva da quote molto molto più alte, e quindi insomma la sensazione è che anche per lui possa essere già un bel test, non certo la partita contro il Genk, no. Non certo la qualificazione, però insomma diciamo che le possibilità di sbagliare adesso si assottigliano molto anche per lui. Senti, il portandoci avanti, mi pare che individuare nella partita di Monaco di domani sera del Napoli il clou di domani sia anche abbastanza banale. Sì, fermo restando che ci sono anche squadre che hanno bisogno comunque di fare punti, perché ad esempio il Manchester United tanto ridere non gli viene, nel senso che prima o poi comunque deve vincere, ed è una squadra che, per carità, va bene tutto, però aveva abituato a un altro ovolino, adesso io credo che non avrà problemi, poi alla fine del girone è comunque seconda a 5 punti, però sai, il Basilea ha 4 punti, è terza, hanno già giocato a Manchester, l'Hotelul Galati a 0 punti, quindi insomma credo che non ci sarà scampo, però comunque il Manchester United, ecco, diciamo che rischia di non vincerlo questo girone, e se non vince il girone poi andrà contro una prima di un altro girone, e magari pigliarsi Real Madrid, Barcellona o Inter o Milan o Bayern di Monaco non deve essere una bella cosa. No, per quanto riguarda le gare di mercoledì, secondo me il vero clou è Bayern di Monaco Napoli, non solo perché c'è una squadra italiana, ma perché quello è veramente il girone più interessante, tenendo conto che il Villarreal potrebbe essere ormai, cioè non solo tagliato fuori perché di fatto lo è già, no, però anche avere un filino mollato, considerando anche poi l'infortunio di Giuseppe Rossi, quindi sì. Vediamo come va, però il Villarreal ormai ha 0 punti, cioè soltanto vincendo potrebbe mettersi teoricamente in corsa per un posto, ma dovrebbe sperare in una vittoria del Bayern di Monaco e poi battere il Napoli nella prossima partita. Non è tagliato completamente fuori, però una squadra che fa 0 punti in 3 partite, io a memoria qualificata poi agli ottavi una squadra così non l'ho mai vista. Insomma. È difficile, e dunque il Bayern che insomma era fino alla visita a Napoli la squadra, non dico imbattibile, ma insomma la squadra più solida d'Europa in quel momento. Poi ha avuto questa leggera flessione, non tanto col pari di Napoli, che era un risultato che gli andava bene, ma insomma con questo risultato. Adesso mi sembra in assoluto che sia già ripartito e che abbia ritrovato il suo passo. Sì, il passo l'ha certamente ritrovato. Io sono d'accordo con te, non è deludente il pareggio di Napoli. Per come è maturato, però, io penso che al Bayern di Monaco abbia dato un po' fastidio. Il Bayern di Monaco voleva vincere quella partita, sì, sì, e aveva tutte le possibilità per vincerla. L'ha un po' buttata con quel calcio rigore anche tirato male, con quel gol preso in maniera abbastanza sfortunata, e probabilmente il Bayern di Monaco era convinto a un certo punto della partita di fare 3-3, di andare a quota 9 e a quel punto lì di giocarsela molto più serenamente. Non ho visto comunque una squadra in difficoltà, ho visto una squadra che ha ripreso a macinare pesantemente i propri avversari in campionato. Ecco, credo che sia una partita veramente molto difficile, penso sia anche più difficile rispetto a quella contro il Manchester City per il Napoli, perché il Bayern di Monaco in casa è veramente un tritacarne, anche se nel passato, anche non lontanissimo, squadre italiane, non soltanto l'Inter ma anche la Fiorentina, hanno fatto una discreta figura, e lo dico ovviamente tra virgolette perché la figura fu ottima, quindi certo. Io credo che il Napoli giocherà una grande partita perché la sensazione è che davvero non stiano aspettando altro, e probabilmente è anche una partita più giusta per questo tipo di Napoli, quella che si prospetta all'Allianz, cioè non dico tutti dietro, però comunque raggio d'azione abbastanza arretrato, e provare ad allargare il campo per il contropiede di Cavani. Sì, che questo sono poi, potrebbe fare male al Napoli. Sì, che sono poi le condizioni ideali in cui il Napoli si sa esprimere, e quindi per che carità, è quello che ha fatto a Manchester, e tra l'altro, molto bene. E come no, benissimo. Quindi senti, a proposito di trasformazioni di squadre dalle partite interne a quelle esterne, il Lille, perché sì, cioè, l'Inter è a un passo dalla qualificazione, a differenza che in campionato, in Coppa, a parte la falsa partenza col Trabzonspor, poi si è ripresa, eccetera. Però una squadra destabilizzata come in questo momento è l'Inter, da tanti punti di vista, anche da quello degli infortuni, insomma, è una partita che se non c'erano queste traversie di campionato sarebbe stata più serena. Così, se il Lille fuori casa dovesse essere una squadra di personalità, potrebbe esserci qualche problema. Potrebbe esserci qualche problema, dipende molto da come si mette subito la partita. Il Lille in campionato si è abbastanza rimesso in carreggiata, rimane comunque a 6 punti al Paris Saint-Germain, quindi quasi tutti pensiamo che il campionato francese non abbia veramente storia. Per quanto riguarda la partita dell'andata, con tutta probabilità il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio. Io mi ricordo il Lille in trasferta non vincere contro il Trabzonspor, mi ricordo una vittoria larga contro l'Auxerre più o meno una quindicina di giorni fa. Non mi ricordo delle imprese memorabili da parte del Lille, anche se qualche successo in trasferta l'ha ottenuto. Adesso in campionato, ripeto, si è rimessa bene, perché reduce da 4 vittorie consecutive, tra l'altro una anche pesante in casa con Lione 3-1 appena dopo la partita contro l'Inter. Quindi non è una squadra che è in difficoltà. In campionato l'ultima partita l'ha pareggiata contro il Valenciennes 0-0 in trasferta, quindi ripeto, non fa paura in trasferta. Può far paura se azzecca subito un bel quarto d'ora, mette in difficoltà l'Inter, magari il pubblico comincia a fischiare, e allora per l'Inter possono essere grossi guai. Se invece è una partita normale con l'Inter, con un Inter brillante, nel senso che probabilmente potrebbe bastare anche un Inter, potrebbe bastare con Lille anche l'Inter di sabato, magari l'Inter di sabato nel primo tempo. Della prima parte, sì. Ecco, nella prima parte. L'Inter di sabato nel secondo tempo invece no, io temo che non basti proprio per nulla. Chiuso il panorama di Coppa di stasera e domani sera, uno sguardo all'indietro, ma neanche poi tanto indietro, perché basta tornare alla notte di domenica e a questa rissa in campo a New York tra le squadre, diciamo, di Beckham e la squadra di Henry. Allora, io leggo dalle cronache, che poi tu certamente ci racconterai, Fabio Tavelli, il dettaglio delle immagini, ma insomma tutto è partito da Rafa Márquez, ex grande giocatore del Barcellona, capitano anche del Messico, eccetera, che l'ha scagliato addosso a Donovan dei Galaxy, e da lì Juninho e chissà quanti altri, rissa gigantesca. Quelle risse da partite di vecchie glorie che mettono un po' tristezza, secondo me. Gigi, anche perché tu ne hai nominati alcuni, cioè sono tutti giocatori, ex giocatori di campionati europei, di leghe importanti, cioè, giocatori di una certa caratura, che sono stati grandi campioni, sono stati dei grandi campioni che con tutta probabilità hanno sviluppato un ego che non si è placato, che le Major League, cioè campionati un po' più rilassati, non hanno placato, e allora ogni tanto succede questo, per cui ripeto, non mi stupisce, mi intristisce un po', ecco, io ogni tanto poi questi giocatori li ho un po' persi, cioè insomma, pensare a Márquez, è un giocatore che io adoravo, come no. Non solo, no? Anche altri che vadano lì a... Sì, ma poi gli stessi Beckham, gli stessi Henry, no? Sono lì che stanno svernando, no? Proprio verso la fine della carriera. Beh, insomma, almeno siate nei comportamenti, siate degni di quello che siete stati, no? Sì, poi è anche vero che tante volte questi giocatori vengono provocati dai ragazzini o dagli eroi di paese, dai campioni di cortile, che vogliono magari portare a casa il piccolo trofeo di aver fatto un fallo importante a un giocatore di nome, e quindi questo può anche succedere, che gli faccia perdere ogni tanto la pazienza. Certo, questo può essere, però fa ugualmente un po' di tristezza. Mentre invece è interessante che Solskjaer, a proposito di ex di ex giocatori, certo non campioni come quelli citati prima, però un buon attaccante. Beh, comunque il suo l'ha fatto. Un buon attaccante allo United, sto vedendo qua i numeri, 126 gol in 366 con lo United, nazionale finché ce n'è. Insomma, questa squadra, il molde, in cui lui aveva debuttato da calciatore, ha debuttato da allenatore, e nel centenario della società questi non hanno mai vinto il campionato e stavolta ha vinto il campionato norvegese. Questa è una bella storia. Queste sono belle storie, queste sono belle storie perché ci sono dentro anche un certo tipo di sentimento, no? Cioè il fatto di voler tornare da dove eri partito non è inconsueto, e trovo che quando poi uno vuole tornare da dove era partito per giocare, quello invece faccia un filo di tristezza, perché significa proprio non accettare il passaggio degli anni. Se uno torna da dirigente, da allenatore dei bambini o piuttosto da allenatore come ha fatto Solskjaer, a me la cosa piace molto, e quindi indirettamente già facevo il tifo per la squadra di uno così. Giustamente, senti, il capitolo spagnolo è ricco come sempre, ma è ricco anche di novità, perché mi pare che anche lì si sia cominciato a pensare alla partita ora di pranzo. Si è già disputata, nel prossimo turno ci sarà il grande Real Madrid che ospita l'Osasuna. Parliamo di sabato 5 novembre, e tra l'altro l'Osasuna è la squadra che ha permesso al Real Madrid di tornare in testa alla classifica, perché ha battuto ieri sera il Levante. Quindi è curioso, devo dire che le dichiarazioni di, ad esempio, di Sandro Rosei, il presidente del Barcellona, non sono state di entusiasmo per la partita a mezzogiorno. Poi tra l'altro la partita è proprio a mezzogiorno, cioè neanche alle 12.30 o alle 13 come a volte fanno gli inglesi, è proprio alle 12, e gli spagnoli sono molto parchi nel comunicare le date di anticipo e posticipo, quindi abbiamo solo questa del Real Madrid contro l'Osasuna e la prossima che sarà della Real Sociedad contro l'Espagnol. Quindi non sappiamo quando il Barcellona giocherà a mezzogiorno, certamente se giocherà fra troppe partite Mourinho è come sentirlo, no? Favoriti, certo. In attesa di un classico che si avvicina, perché siamo nel weekend tra il 10 e l'11 di dicembre, quindi insomma vicino a Santa Lucia ci stiamo arrivando. L'anno scorso il Real Madrid andò primo in classifica prima del classico, poi arrivò la manita e in testa non ci andò più. Adesso ci è tornato. Chissà se il Levante ha finito, secondo me già lo sapremo presto, perché tra l'altro ci sarà anche Barcellona-Levante prima di Real Madrid-Barcellona, quindi cioè, secondo me una quindicina di giorni e sappiamo se il Levante ha finito la benzina o se era soltanto... No, comunque è curioso e particolare, perché credo che per gli spagnoli mezzogiorno sia un orario davvero impegnativo, cioè anche a livello di vita, loro sono proprio abituati a un orologio biologico diverso dal nostro, quindi... Ma loro giocano alle 12.12? 12.12, sì. 12-12 per loro in fondo è più l'ora dell'aperitivo che del pranzo rispetto a noi. Sì, quindi credo che non esista un ristorante aperto in Spagna. Esatto, quindi forse come danno alle buone famiglie, intendo dire, è inferiore al nostro, ma insomma... Per quanto riguarda il pranzo, evidentemente sì, perché può, sì. Anzi, non escludo sia stata una scelta apposita, cioè di far giocare a mezzogiorno, considerando che comunque prima delle 2 uno neanche ci pensa al pranzo. Perché poi comunque il pranzo in Spagna è molto più avanti, è oltre le 2, verso le 3 e quant'altro. E quindi forse è vero, è quasi considerato un dopo colazione. Dunque, il Real mi sembra sempre più macchina da guerra, sì, indipendentemente dai punteggi. Fa paura in campionato e in Coppa, e forse è vero quello che si dice, cioè che è il secondo... anno quello vincente, o comunque quello migliore di Mourinho, no? Prima, è possibile. Prima che i cervelli siano troppo strizzati, ma dopo che si è impadronito totalmente dell'ambiente, come d'altra parte era successo all'Inter e più o meno era successo al Chelsea. Il Barcellona batte strade alternative, perché sono due volte che vedo giocare un ragazzino, tra l'altro niente male in attacco. Ma il Barcellona batte strade alternative anche perché ogni tanto deve... è costretto anche a confrontarsi con tutta una serie di infortuni e tra l'altro anche con degenze non indifferenti e non di poco conto, per cui anche nella partita che si è giocata l'altra sera per carità, l'ha risolta immediatamente Messi e va bene così. Poi Messi probabilmente cercava, anzi probabilmente, sicuramente cercava il gol che gli avrebbe fatto fare un'altra cifra tonda, non c'è riuscito, ma va bene, nel senso che arriverà la prossima volta. Adesso siamo vicinissimi ai 100 gol di Cristiano Ronaldo, poi c'è Messi, cioè tutto il resto. Quenza è il ragazzino di cui parlavi tu, ne ho parlato con José Altafini l'altra sera, lui ha commentato la partita, me ne ha parlato con l'occhio di chi aveva gradito, insomma, e quindi fidandomi molto del parere di José, credo che possa essere un altro di quelli interessanti, a dimostrazione che anche se giocano quasi sempre gli stessi, un giocatore o due all'anno, poi Guardiola lo porta a respirare l'aria della prima squadra e gli fa vedere il campo, e questa mi sembra già comunque una buonissima notizia. Lo sembra anche a me. Io chiuderei con un ricordo. Beh, non so se tu puoi ricordare molto di Albert, di Florian Albert. Onestamente no. Tanto, magari qualche filmato. Beh, insomma, questo è stato un pallone d'oro del 67, un ungherese di grande talento, poi certo non del talento di Puskas, Kocsis, dei grandi della grande Ungheria, però uno che in ogni caso in un anno un po' avaro di gol, in un mondiale un po' avaro di gol, che fu quello del Cile, fu capocannoniere insieme a Vavà e Garrincha, e quindi insomma Albert, i suoi quarti, che è scomparso ieri a Budapest a 70 anni, i suoi quarti di nobiltà li aveva. Fabio, grazie per questa straordinaria partecipazione, nel senso, se non altro perché festiva. Grazie a te, Cici, un saluto a tutti e dunque buona giornata di festa a tutti voi. È tutto per oggi, grazie a Paolo Corleoni in regia e a Franco Piantanida in redazione. Ricominciamo domani, immagino, da Antonio Cassano.